Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Eccoci. Buonasera. Guardi un po' chi c'è. Le ho riportato sua figlia. Ecco qua. Senti un po' che tu. Che fai, oh? Che fa lei piuttosto? Lei chi è? Io sono uno che la invita a comportarsi bene con i figli. Se non vuole ritrovarsi sulla coscienza una disgrazia, capito? A buon intenditor, poche parole. Ma che cosa sta dicendo? Quale disgrazia? Che è successo a mia figlia? Che cosa ci fa in taxi con mia figlia lei? Ma si tolga dai piedi, imbecille, che non è altro. Respingo l'imbecille, e le intimo, se no? Uno schiaffo le do. Sì, e vediamo. Brutto fio de una mignotta. Ma che fai? A vigliacco, dai uno schiaffo e poi scappi. E non scappi. Ti comunico che sporgo denuncia alla Procura della Repubblica. Il mancato suicidio di tua figlia per maltrattamenti subiti è materia penale. La mia testimonianza demanderà in galera, capito? Brutto bassetto delinquente. Come? Ma perché non me l'ha detto subito? Ah, non te l'ho detto? Che maschera. Sono profondamente dispiaciuto. Non questo un gesto del momento. Era uno dei peggiori, anzi forse il peggior film di Alberto Sordi, assieme a quello del guidatore di carrozzella per Roma col cavallo morto, Nestore. Il tassinaro trova una ragazza che sta per suicidarsi, a Roma la riporta a casa, il padre è totalmente disinteressato al fatto, finché lui non minaccia di denunciarlo per maltrattamenti e istigazione al suicidio. E il padre improvvisamente si rabbonisce di fronte alla minaccia di denuncia. Ma strano, è un film che vale poco, ma è un film profetico. E mi permette di introdurre l'argomento di oggi, che è un argomento molto delicato, che tratto con grande cautela, primo perché si parla di un suicidio, per vecchia tradizione professionale non parlo mai di qualcosa che ha come base un suicidio, secondo perché parla di una ragazza minorenne e parla di un problema legato ai genitori di questa ragazza, e terzo perché non ho voluto nessun esperto, non ne posso più di esperti, psicanalisti, psicologi, antropologi, esperti della famiglia, no, voglio parlarne con il pubblico. Mi sono divertito molto ieri a parlare con il pubblico di calcio, materia di cui non so nulla. Oggi parlo di figlioli, che è una materia di cui qualcosina so, ma non perché ho studiato, perché ho vissuto. La storia è della ragazza di Forlì, una liceale sedicenne, studentessa modello, addirittura 9,75 di media, andava benissimo, una ragazza apparentemente chiusa, con poche amicizie. Un giorno prende, registra un video di mezz'ora in cui dice ai genitori i motivi per cui lei è infelice, le proibiscono tutto, non può vedere gli amici, non può andare in Cina dove andare a fare una vacanza a studio di un anno. Non le permettono di vivere, lei questa situazione non la tollera più. Finito il video, prende, si butta alla finestra e suicida. Hanno fatto i funerali in maniera molto discreta, l'hanno cremata, di lei non resta più nulla, se non il fatto che la Procura della Repubblica ha deciso di indagare il padre e la madre della ragazza per maltrattamento psicologico e istigazione al suicidio, proprio come la minaccia del tassinaro Alberto Sordi. Si apre una vicenda molto singolare, perché gli inquirenti dicono: se qualcuno sa qualcosa su questa ragazza può aiutarci a comporre questo quadro, fatecelo sapere. Quindi brancolano nel buio, sono andati a casa, hanno preso il computer, hanno visto le cose della ragazza, insomma si è aperta un'inchiesta vera e propria. I genitori hanno una colpa presunta, presumibile, in questo assolutamente non c'è nulla di certo, perché secondo gli inquirenti è una vicenda poco chiara, nonostante sia molto frequente il suicidio di adolescenti per motivi apparentemente, per noi che ormai siamo vecchi, futili, indifferenti, piccole cose, vanno male a scuola, non si sentono capiti, compresi. Questa è una ragazza che apparentemente aveva tutto, viveva in una tranquilla villetta, e le villette sono nel nostro paese il teatro principale dei peggiori orrori familiari. Non è detto che la sua sia una vicenda a senso unico, che quello che dice lei sia esattamente riscontrabile in una realtà, che fossero dei genitori che le impedissero tutto, dei genitori aguzzini, dei genitori che non le impedirono di vivere la sua vita. Potrebbe anche essere, sono dei normalissimi genitori che hanno le normali, basilari tutele nei confronti di una figlia adolescente, probabilmente un po' chiusa, o può essere che c'è altro. Per questo ha aperto un fascicolo e per questo stanno indagando. Voi come la vedete questa vicenda? Cosa cambia rispetto al passato della cosiddetta riservatezza familiare? Quanti orrori sono tenuti nascosti in famiglia? Quanti ne abbiamo vissuti noi? Orrori blandi, orrori quotidiani, orrori banali. Intanto vi do il numero di telefono perché la farò un po' lunga. 800 24 00 24. I miei unici interlocutori saranno gli ascoltatori, vorranno seguirmi in questo ragionamento, ma semplicemente sulla loro esperienza. Non voglio dare giudizi, non voglio fare processi anticipati, non voglio mettere sotto l'occhio l'attenzione quella famiglia. So esattamente quello che c'è scritto oggi su tutti i giornali italiani di questa famiglia, non so nient'altro. No, la vicenda è la forte maniera che ha avuto questa ragazza per lasciare comunque un macigno indistruttibile sull'anima dei suoi genitori, siano essi in parte responsabili del suo malessere o siano essi dei banalissimi, normalissimi genitori che arrancano ogni giorno con le mille difficoltà che ogni genitore per gestire un figlio adolescente. Nicola, buongiorno. Buongiorno. Primo ascoltatore, vale. Suo grazie punto di vista. Contattato. Io ne so esattamente quanto lei, quindi non posso aggiungere molto rispetto a quella che è la notizia. La notizia no. È questa. Sì, signor Nicoletti, avevo chiamato anche per esporre la mia esperienza personale. Praticamente io mi sono trovato con una mamma molto che mi dava molta libertà ed un padre un po' più severo anche per quanto riguarda gli studi. E niente, io alla fine ho iniziato a studiare giurisprudenza, ma alla fine mi sono realizzato tutt'altro in un altro settore che è la scrittura, appunto, perché sono riuscito a pubblicare il mio primo libro. Ma riesce a mantenersi con questa attività? Purtroppo no, ecco. Purtroppo no. Quindi lei come fa a tirare avanti? Do una mano nelle due tabaccherie dei miei genitori. Quindi lei diciamo aiuta i genitori nelle loro sua attività familiare? Sì, perfetto. Però se avesse studiato da avvocato oggi avrebbe un'altra vita. Sì, vabbè, ho 23 anni, quindi ancora ho diciamo tutte le possibilità. E quanti esami ha dato? No, purtroppo ha dato solamente due esami, privato. Beh, non è che ha 23. Beh, privato sì. Era già un bel esame, era il primo scoglio diritto privato. Sì, il primo scoglio. E quindi è andato bene diritto privato, aveva tutte le possibilità per continuare. Sì, certamente, però purtroppo sento che non è quella la mia vita. Cioè, non c'ha voglia di fargli di studiare, va bene. Sì, ma non è che facendo lo scrittore si diventa ricchi, eh? No, assolutamente non è quello. Infatti, ma nemmeno ci si mantiene, questo è il problema. Sì, se si parte con quell'obiettivo io penso che non si riesca a fare nulla. E quindi se non ci fosse la tabaccheria dei suoi genitori, lei oggi sarebbe sotto i ponti. Sarei sotto i ponti o disoccupato. Sì. Senta, poi volevo dirle... Sì, ma questo rispetto alla nostra vicenda, è interessante, eh? Poi lei cosa vuol dire? Lei non si è suicidato o i suoi genitori no, le hanno lasciato fare quello che voleva? No, mi sembra una scelta estrema, eccessiva, il suicidio, cioè ci sono tanti altri problemi. Su questo sa, è insondabile, ancora nessuno saprà mai dirci, a meno che non ci passiamo come esperienza, quello che accade nella mente umana sul desiderio di autoannientamento e di lasciare un segnale forte, vindice nei confronti di chi ci sopravvive. Ma in questo caso, nel suo caso, le aspettative dei suoi genitori, lei l'ha totalmente disattesa, ma questo ha fatto sì che i suoi genitori non gli abbiano fatto una colpa, mi pare. A loro è sufficiente no, che lei vada a vendere i cerini nella loro tabaccheria in qualche ora al giorno e finito lì. Perfetto, assolutamente no. Poi, signor Nicoletti, le volevo fare un appunto per la puntata di ieri, ho provato a chiamare. Mi aspettavo che avrebbe citato Churchill la frase «Gli italiani perdono le partite di calcio come fossero guerre». Guardi, è 10 giorni che tutti su Twitter se la rilanciano, mi sembra talmente logorata dall'abuso. Però non vorrei adesso togliere, non dico pathos, ma attenzione, l'argomento è un altro. Grazie alla sua testimonianza. Nicola ha parlato di una scanzonata testimonianza di genitori, probabilmente hanno provato a stringere il loro figlio in delle loro lecite attese di vita futura, non ci sono riusciti, ma loro probabilmente alla fine hanno ottenuto il loro scopo, perché Nicola erediterà la tabaccheria dei genitori, farà il bravo tabaccaio, siccome avrà molto tempo a disposizione, terrà sotto il banco delle sigarette, delle schedine del Gratta e Vinci il suo foglietto dove ogni giorno segnerà i suoi appunti, farà i suoi libri, sarà un bravo scrittore, potrebbe avere anche fortuna come scrittore, non è che facendo lo scrittore riuscirà mai a mantenersi. Allora, il tema è questo, torniamo al discorso della povera ragazza di cui stanno parlando oggi i giornali. L'Italia come sempre si dividerà, vedrete che ci saranno talk televisivi, ci saranno pomeriggi di bravi conduttori, sarà nuovamente la resumazione di tutta l'esercito delle psichiatri, psicanaliste, esperte in famiglia che andranno lì con la voce rotta dal pianto, con lo sguardo commiserato e diranno le stesse cose. I ragazzi vanno capiti, non vanno colpevolizzati, vanno seguiti, bisogna star loro dietro, dimenticando il fatto che nella buona intenzione, salvo che non ci siano genitori scellerati di natura, può esserci anche questo, i genitori fanno di tutto per seguire un ragazzo, che l'adolescenza è una fase molto particolare, l'adolescenza vissuta in questa particolare circostanza spazio-temporale è ancora più difficile da gestire. Non è che ci sono strumenti, non è che c'è una scuola di genitori, anzi è sempre più difficile recuperare dei figli perduti di quella tradizione orale con le generazioni passate che qualcosa ci insegnava. Quindi come la vedete, 800240024, Franco. Sì, buongiorno, mi chiamo Franco, ho 43 anni, ho tre figlie femmine che sono bellissime, spero di essere un bravo padre, ma la cosa con cui faccio veramente... Quanti anni hanno le figlie femmine? 4, 7, 8 e mezzo ormai, perché io faccio sempre il tempo, e 10. Lei si vede fra una decina d'anni in cui saranno tutte adolescenti o ragazze? Ma guardi, io sono gelosissimo, quindi ho il panico, il terrore di come sarò io. Quindi lei rischia di comunque di creare loro una cortina protettiva che le schiaccerà? No, mia moglie è molto in gamba, quindi mi aiuta a diventare meno geloso. Ma geloso, quando avranno l'età se le piglierà qualcun altro, questo se lo immagino. questo è preventivo, come ho fatto io all'epoca. Ma il mio problema è che sono tre caratteri completamente diversi e devo avere un metro a misura uguale. Però per una... Ma mica si fanno in serie i figli, scusi, con lo stampino. È difficile, non sai mai se fai veramente la cosa giusta. Difficilmente i figli sono uguali. Se togliere è veramente la cosa giusta, perché c'è quella che è più sensibile, c'è quella che è timida e quell'altra, sono tre sorelle completamente differenti. Io dico, è veramente difficile. Io non voglio coprire. Ecco, lei ha mai avuto sentore però da parte delle sue figlie di qualche accusa di non ricordare? Vai che sono bambine, ancora è difficile, ma i bambini oggi sono abbastanza svegli. No, sono bambini, ma solamente... Ecco, le hanno mai fatto capire, guardi, papà, questa cosa mi fa soffrire, mi fa star male, mi dà dei problemi? Si è mai sentito un padre vessatore? Perché la ragazza, l'unica cosa che sappiamo dalle cronache dei giornali, che dice, non potevo fare niente, studiavo, avevo ottimi voti, era una studentessa di prima classe, questo non serviva a ottenere ciò che lei volesse. Lei voleva andarsi un anno in Cina e pare questo fosse proibito. Lei voleva comunque poter uscire, avere amici, e i genitori ugualmente li stanno molto addosso. Melog, cronache meridiane. Genitori e figli, istruzione per l'uso. Ma professore, che significa istruzioni per l'uso? Dobbiamo fare una lista, un elenco? No, io direi piuttosto date dei consigli. Ma dei consigli veri, quello che sentite, ai vostri genitori. Anche delle regole ferree da rispettare, sia chiaro, da entrambe le parti. Perché vedete, i genitori non è che sono una categoria così che nasce giusto per rompere i coglioni ai poveri figli, Ma non c'è niente da ridere, dai. Forza, lavorate, 2 ore avete a disposizione e potete sbizzarrirvi come volete, perché tanto io non mi scandalizzo. Io mi scandalizzo soltanto se sento i cellulari che suonano o se scrivete, perché con l'X e col K, vero? Berardelli? Qual era il tuo capolavoro? Come si chiamava la famosa frase? Ah sì, perché Dante è... Questo era un film di Veronese, il 2010, genitori figli agitare bene prima dell'uso. Michele Placido, professore, chiede ai ragazzi, scriviti cosa vorreste dei vostri genitori, ma è difficile che i ragazzi possano in maniera strutturata dire cosa vogliono. Dovrebbe essere l'aria che respirano, l'humus che hanno intorno, il clima che li fa star sereni, ma è molto difficile crearlo, perché esistiamo anche noi. Noi genitori abbiamo anche noi una vita, abbiamo anche noi dei problemi, abbiamo anche noi delle fragilità, e mostrare le fragilità ai figli ci insegnano che è la cosa più difficile, e per non mostrare le fragilità la maniera più semplice è alzare le barriere, alzare le muraglie, diventare impenetrabili ai propri figli. E poi potrebbero accadere cose del genere, e non certo, come mi scrive un ascoltatore via SMS, il suicidio della sedicenne è l'emblema del fallimento alla famiglia italiana, fallimento scaturito da uno stato cieco, esterofilo e classista. Pasquale, non c'entra proprio una mazza quello che lei dice con l'argomento, una lettura superficiale, banale, di maniera, biliosa, non c'entra nulla. Cerchiamo di capire all'interno il problema. Un suicidio non è significativo di nulla, non è emblematico di nulla, non indica una categoria di malessere, è diverso, è un atto epico, un atto singolare, è un atto che si serializza nel processo imitativo se se ne parla troppo, infatti lo tengo in secondo piano, è la famiglia sotto il riflettore in questo momento che è in primo piano. Sto parlando con Franco e concludo, che ha dei figli. Franco, finiamo con lei. Ma niente, per me, ripeto, è difficile perché sono tutti e tre diversi. L'unica roba che riesco a fare con mia moglie è essere molto complici e giochiamo un po' a uno fa il bravo, l'altro fa il cattivo, ci invertiamo i ruoli in modo da avere sempre un muro penetrabile e capire cosa vogliono veramente. Un Quindi come i poliziotti, come i poliziotti nell'interrogatorio, uno fa il buono e l'altro fa il cattivo. Come un gioco, perché magari uno poi magari uno è più sensibile con me, viene da me, dai papi, perché sono piccoline per lavoro. Un emblema enorme è il telefonino, noi cerchiamo di evitare perché per noi sono piccoli. Mentre qual è l'età minima, l'età minima di richiesta? Scusi Franco, Paolo, scusi, l'età minima di richiesta del telefonino qual è, Paolo? Cioè quella di 4 anni già vuole il telefonino. Sì, ma la vuole la grande, ma la piccola lo vuole anche lei, perché si scimmiotano tutto, ovviamente. D'altronde bisogna cominciare a ragionare che è uno strumento complicato, difficile, potrebbe essere pericoloso, ma ormai è come una parte, un organo del nostro corpo che ci manca. Difficilmente si entra in relazione col mondo se non ha questa protesi, ne abbiamo bisogno, va gestito, bisogna spiegare bene, capire e avere qualche piccola furbizia, visto che sono bambine piccole, per controllare il traffico di quel telefono, almeno fino dai 4 agli 8 anni lo reputo lecito. Franco, Paolo c'è? Sì, c'è Paolo, è qui. Ecco, allora, sentiamo. Paolo ha una figlia di 29 anni, si è separato quando lei aveva 4 anni, abbiamo perso la mamma, si è separato non volontariamente, per la volontà di Gesù Cristo, perché abbiamo perso la mamma, siamo cresciuti... Separato, cioè è rimasto vedovo? Sì, sono rimasto vedovo. Diverso, sono rimasto vedovo, che lei era piccola. Cioè aveva, quindi l'ha allevata praticamente da solo sua figlia? Sì. Il rapporto è stato molto difficile all'età di 13, 14 anni, 15 anni. Beh, certo, un'adolescenza senza madre vicino non è proprio... Sì, senza madre e senza una compagna, perché io poi mi sono risposato nel 2002, quando lei aveva 16 anni, l'ha accettato benissimo, anzi è stato proprio uno spronarla verso... Ecco, se lei dovesse dare... un suo parere, un suo giudizio, qualcosa utile a comprendere la vicenda di cui abbiamo parlato? Ma secondo me, io più che la famiglia penso che sia determinante l'individuo, cioè la mamma per mamma, il papà per papà. Cioè è molto importante, allora io c'ho un bambino di 9 anni adesso e uno di 20 giorni. Allora, quello di 9 anni c'ha il telefono da 2 anni, dove però c'è un'app sul mio telefono dove io so tutto quello che lui è fa. È quello che dicevo prima, mi sembra logico che a quell'età il genitore abbia il lecito diritto, poi quando sarà un po' più grande sarà anche salutare che lo lascia andare con le sue gambe, se sì, no. Sì, però sì, mi sembra sì, chiaro, più grande, sì. Noto una cosa, grazie, intanto la saluto Paolo, non chiama nessuna mamma stamattina. Delle volte cade un blocco pneumatico nelle nostre ascoltatrici che non vogliono, non so, non si vogliono aprire, non vogliono dare un contributo. Questa cosa mi rattrista da un certo punto di vista, dal punto di vista mi lascia inquieto. Com'è c'è questa attenzione maschile e le donne quando si parla di argomenti che per tradizione o visceralmente, l'orologio biologico, ci state a sbrindellare dalla mattina alla sera, per voi così fondamentale avere un figlio? Oggi parliamo di figli, nessuno di voi ha qualcosa da dire su una vicenda così, nascosta. Vabbè, Andrea. Buongiorno Gianluca. Sì. Parliamo fra uomini, visto che questo ci passa il convento. Sì, semplicemente volevo dare la mia testimonianza relativamente alle aspettative che avevano i miei genitori rispetto al percorso di studi e quindi al percorso di vita che avrei dovuto intraprendere. E quindi mi hanno spinto, oggi ho 29 anni, faccio alla fine, sto campando di quello che era la mia passione, quindi alla grande va bene. Ma è andato contro la volontà dei genitori o l'ha seguita? No, sono andato contro perché loro desideravano che io studiassi scienze motorie, perché sì, loro sono insegnanti di educazione fisica. Cioè, invece lei? Molto, molto statali. E lei che ha fatto? Lei che ha fatto? E io faccio il fotografo, campo di fotografia, e però il fatto che loro forzatamente mi abbiano iscritto a scienze motorie... L'ha fatta ribellare. Questa è una grande speranza per Fabrizio Intonti, la sta ascoltando estasiato, che anche lui diventerà un grande fotografo. Come visto, dipende molto anche dall'iniziativa personale. I genitori rappresentano una barriera, molte volte il nostro primo compito di essere umani è superare e spezzare quella barriera. A domani.